Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Sul fiume Giallo con Aldo Pavan. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Ero in un piccolo paese della Cina e vorrei cominciare con questa piccola storiella. E mi ero perso tra i vicoli. Loro hanno questi villaggi nella pianura che hanno queste case con i muri molto alti, sono molto legati alla loro privacy. E sbirciavo in questo villaggio vedendo le porte d'entrata dove loro dipingono dei segni beneaurali del tipo... gli amici sono benvenuti, i nemici se ne vanno lontani. Oppure mi capitava di vedere delle pareti tutte dipinte davanti alle porte delle case, proprio per tenere lontano gli spiriti che, secondo la tradizione cinese, non vanno mai in linea orizzontale, cioè non vanno mai zizzagando, ma vanno sempre in linea orizzontale, quindi trovandosi questa barriera davanti alla porta non possono passare. Come inizio non male, vero? Chi mi sta raccontando queste cose è Aldo Pavan, giornalista, fotografo e videomaker. Insomma, uno che di immagini se ne intende, siano scritte, impresse su carta fotosensibile o filmate. Pane per i miei denti, direi, visto che è con l'immaginazione che anche oggi, come ogni meta sondata fin qui, intraprendo il mio viaggio. Già l'idea degli spiriti che non vanno zigzagando, ma solo in linee orizzontali, mi basta per aprire una finestra e affacciarmi sulla nuova destinazione Cina come carta assorbente. La storiella di Aldo prosegue e io ne bevo ogni dettaglio. Stavo cercando, sapevo che c'era un piccolo tempio e allora ero con mia moglie, che lei ha studiato un pochino cinese proprio per aiutarci a fare questo viaggio, e abbiamo cercato di avvicinare una persona e in cinese abbiamo detto il nome del tempio, cosa che per, ovviamente non sappiamo che la lingua cinese è molto difficile, se si sbagliano gli accenti e non ci si capisce assolutamente. E questo signore ci ha visto in difficoltà, è stato molto gentile, ha cercato di capire, poi si è accovacciato, la strada era la strada bianca, e ha cominciato a scriverci gli ideogrammi cinesi col dito sulla polvere, perché noi comprendessimo le indicazioni che lui ci stava dando, convinto appunto che gli ideogrammi che corrispondono al mandarino cinese fossero comprensibili da tutti, quindi anche dagli stranieri. La Cina ha tanti diversi dialetti, no? Quindi rivolgersi agli ideogrammi per loro è molto importante, perché così ci si può comprendere. Beh, ci si può comprendere se sai il cinese. Una delle difficoltà di un viaggio in questa terra è proprio la lingua, soprattutto se si esce dalle grandi città. Anche riuscire a organizzare le cose più banali diventa un'impresa, come dice Aldo. Meno male che a salvarci c'è la disponibilità degli abitanti. E quindi questa avventura in questo piccolo villaggio, con questa persona che poi è stata gentilissima, ci ha accompagnato lui di persone dove dovevamo andare. Abbiamo scoperto questo piccolo tempio. Sono in questi villaggi della pianura e qui devo dire che questo incontro è stato fatto mentre stavo seguendo il corso del fiume Giallo, e, perché ho realizzato un libro sul fiume Giallo, un libro che parte dalle sorgenti, quindi dal Tibet, attraverso la Mongolia cinese e poi scende lungo le grandi pianure, sfociando nel mare a sud di Pechino. Il fiume Giallo è il principale fiume della Cina settentrionale e in assoluto il secondo del paese dopo il fiume Azzurro, con una lunghezza totale di circa 5.464 km e un bacino di raccolta ampio circa 745.000 km². Il fiume Giallo nasce nella parte nord della Cina, a sud del deserto di Gobi, nella provincia del Qinghai, dalle montagne Kunlun, conosciuto con il nome tibetano di Machu. Gli abbondanti materiali giallastri che il fiume trascina con sé non sono altro che sedimenti fertili raccolti dalle acque durante il percorso attraverso gli altipiani, giustificando così la denominazione di fiume Giallo. Wow. 为传统的土壤播种，为你留下回忆。 陌生熟悉都是靠人情，不用距离。 第几次来没关系，有太多话题。 La Cina vista seguendo il fiume giallo, un po' dragone e un po' serpente, visto il suo corso sinuoso tra l'altopiano tibetano, le terre steppose della Mongolia e poi via verso città, in mezzo a dighe e impianti industriali che ne condizionano la corsa verso il mare. Per i cinesi, il fiume giallo è la madre della Cina. E infatti, lungo il suo corso, è nata la civiltà degli Han, l'etnia maggioritaria, come ci tiene a sottolineare il mio compagno di viaggio. Allora, partendo dal Tibet, il fiume giallo in qualche maniera disegna la sagoma di un dragone e le sue fauci sono rivolte al mar cinese. E per i cinesi, mi è capitato più volte questo episodio, i cinesi spiegano che il fiume giallo corrisponde all'etnia Han, che è la etnia maggioritaria, perché è giallo come la loro pelle. E questo te lo dicono senza non è offensivo per loro dire che sono dei gialli come il fiume giallo. Per questo ho deciso, sto lavorando una lunga collana sui grandi fiumi del mondo, ho realizzato prima il Gange, poi il Nilo, il terzo volume è il fiume giallo, che è uscito in 5 lingue. E per questo ho deciso di prendere il fiume giallo come simbolo di questa Cina, perché in qualche modo la rappresenta e la sintetizza. Certo che un fiume carico di sedimenti che gli danno proprio il colore giallo come destino non poteva che scorrere in Cina. Quando si esce dalle grandi città e si cerca di seguire un itinerario come questo, ci si imbatte ovviamente in tante situazioni minori. E si capisce che la Cina ha veramente due velocità, perché le grandi città hanno i loro ritmi. E c'è questa grandissima immigrazione dalle campagne verso le città, quindi gli stessi cinesi che vivono in città, nelle periferie, sono loro degli immigrati, con difficoltà anche con la lingua. E quando invece si segue il corso del fiume, che è stato per me un pretesto per conoscere questo paese, e si scoprono tante piccole cose che sembrano magari insignificanti, ma che danno il polso di ciò che sta avvenendo in Cina, del grande cambiamento, perché mentre si corre a tutta velocità a Shanghai, magari, in queste campagne si seguono ritmi antichi che sono assolutamente ciò che in parte corrispondono alla nostra idea della Cina, dell'antica Cina. Ed è bello cercare di andare in questi posti, perché ancora si trovano situazioni tipo quella che raccontavo, ma anche le donne fuori dalla casa, sedute, che si raccontano le loro storie, oppure, cosa molto più frequente, ci trovano i contadini che lavorano sui campi e soprattutto come raccontavo prima, si scoprono queste piccole reliquie del passato che la rivoluzione culturale cinese non è riuscita a cancellare come avrebbe voluto. La Cina e il suo fiume, con tutto l'immaginario legato a quest'acqua che non appartiene a nessuno, ma scorre e muta. E proprio nella mutevolezza avviene la sospensione del tempo, dove le tradizioni possono sentirsi a casa. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Sul fiume giallo con Aldo Pavan. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Il fiume giallo, un colore, un destino. Sono in Cina con Aldo Pavan, che mi sta conducendo proprio lungo le rive di questo corso d'acqua che nasce limpido dalle montagne del Tibet e dopo anse e torsioni che lo fanno sembrare un dragone, raggiunge il mare assumendo quasi il colore della pelle degli abitanti di questa terra. Ma prima di arrivare alla foce, vediamo cosa ci svela con il suo corso. Allora, il fiume Giallo fa questa grandissima ansia e si avvicina al deserto. Noi nella nostra testa abbiamo il deserto dei Gobi, no? Però questo deserto, che è un deserto che assume l'aspetto del Sahara, ha delle dune altissime, che sono alte 200-300 metri, che per i cinesi è un posto assolutamente impenetrabile, perché loro non sanno guidare le macchine come fanno i Tuareg dell'Africa. E questo deserto confina con le grandissime praterie che sono della Mongolia in cinese, la Mongolia cosiddetta Mongolia interna, che fu la terra in cui penetrò l'orda di Gengis Khan nel XIII secolo. Se non vado errato, credo che sia così. Gengis Khan, che nome altisonante, chi non ne ha mai sentito parlare? Forse anche perché suo nipote, Kublai Khan, incontrò il nostro Marco Polo. E un viaggetto in Cina attraverso il milione ce lo siamo fatti tutti ai tempi della scuola. E un'altra delle cose curiose nella Mongolia interna è la presenza di un grandissimo mausoleo dedicato a Gengis Khan. La tradizione vuole che Gengis Khan non sia stato seppellito in un posto preciso, ma ci sia una tenda che contiene i suoi resti. Questo per evitare che, questo tradizionalmente nei mongoli non avevano una tomba, perché essendo un popolo nomade. E questo per evitare che in qualche maniera nascesse il culto di Gengis Khan e soprattutto che venissero profanati i suoi resti. Ma la cosa curiosa è che i cinesi negli ultimi anni hanno creato questo mausoleo che è diventato luogo di culto per i mongoli. E allora ti trovi di fronte a un paradosso, dove un guerriero che ha sconfitto una dinastia, dove un guerriero efferato che si racconta che fin da piccolo abbia ucciso il fratello minore, che torturasse le galline e cose di quei racconti di questo genere, frutto ovviamente delle leggende, credo, suppongo, si trova a essere diventato un personaggio di culto religioso. In fondo è il mongolo più famoso della storia, al di là dei paradossi. Un sondaggio dell'UNESCO lo ha persino nominato come personaggio storico del secondo millennio. Allora è bello vedere perché arrivano questi giovani, anche giovani, non solo anziani, che vengono a pregare in questo mausoleo dove ci sono i simboli classici dell'orda di Gengis Khan, la spada, il vessillo di ferro e un pezzo di pelliccia che sono i simboli che sono nella bandiera dei mongoli e vengono questi giovani vestiti col costume tradizionale mongolo, e questo è molto curioso. Pregano di fronte alle loro tombe, alla tomba di quello che loro ritengono sia il fondatore della loro ormai diventata quasi religione, e tutto ciò è stato fatto dal governo cinese. Allora, anche questo per risolvere tensioni che potevano nascere. Allora, cari signori mongoli, vi facciamo un bel mausoleo, voi andate a pregare lì e state buoni, tranquilli. Gengis Khan e l'orgoglio nazionale ritrovato dei mongoli. Anche questo ci aspetta lungo le rive del fiume Giallo. E così, come il corso d'acqua prosegue inesorabile la sua discesa, lo stesso faccio io al seguito di Aldo Pavan. Questo grande dragone, dopo che ha piegato la sua schiena nella Mongolia interna, gira improvvisamente verso sud e entra in un territorio che i cinesi chiamano il territorio delle terre gialle, che in termini più tecnici si chiama territorio regione di Leus, ed è un territorio che è giallo, appunto, terrazzato, zona di miniere, dove il fiume si carica di questi sedimenti gialli che danno il nome al fiume stesso. E da questo punto in poi il fiume si incanala attraverso strette gole e molte volte tracima, e nella storia cinese c'è un detto che dice: quando il fiume giallo è in pace, anche la Cina è in pace, qualcosa del genere. Più di 4.000 anni fa l'imperatore Yu il Grande diceva: tenere a bada il fiume giallo vuol dire controllare la Cina. Questo anche perché, oltre ad essere considerato la madre della Cina, è allo stesso tempo anche la sua disperazione. Catastrofiche esondazioni, infatti, sono un vero e proprio flagello per chi vi abita vicino. Esondazioni dovute anche alle infinite dighe che negli anni sono state costruite per aiutare l'economia del paese. Ecco perché si legge un po' ovunque che quando il fiume giallo è in pace, anche la Cina è in pace. Questa stessa scritta la possiamo leggere in una delle tante dighe che il governo cinese ha costruito nel corso degli anni e soprattutto negli anni recenti per sfruttare l'energia che è data dal grande fiume. Ci sono alcune dighe enormi che hanno provocato ovviamente l'esondazione del fiume, trasformando quella che è un po' anche ovviamente l'economia del luogo. Molti contadini hanno perso il loro lavoro, ma sappiamo che i cinesi hanno fatto degli spostamenti di massa che sono stati veramente biblici, come quantità di persone che sono state spostate dalle loro case. Ed è in questo territorio dove ci sono tantissime miniere dal quale è lo Shaanxi. Qui siamo nella regione Shaanxi. Sono due regioni che si toccano in Cina. Una si scrive Shaanxi con due A, una si scrive come Shaanxi con una A solo, solo tanto per aiutare lo straniero a fare un po' di confusione. Si toccano e il fiume giallo percorre il confine, e prima di arrivare nella città di Xi'an, che noi tutti conosciamo come una delle città storiche cinesi, meta del grande turismo internazionale, perché c'è qui il grande esercito di terracotta che costituisce una meta tra le più importanti della Cina dal punto di vista turistico. Lungo le sue rive, anche in quelle regioni di cui non sappiamo pronunciare bene il nome, sono sorti regni, fioriti imperi, hanno cavalcato orde di invasori, la cui testimonianza è appunto nell'esercito di terracotta di cui parla Aldo. E oggi ci sono anch'io. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Sul fiume giallo con Aldo Papan. When I walk beside her, I am a better man. When I look to leave her, I always stagger back again. La Cina lungo le rive del fiume giallo. Un fiume che la percorre per circa 5.000 chilometri tra paradossi e storia antica e moderna di un paese che viaggia a due velocità. Sono con Aldo Pavan, che mi sta raccontando la sua Cina attraverso aneddoti che mi aiutano a inquadrare meglio questa terra. Sono arrivato alla stazione di Xi'an la mattina presto col treno, perché si viaggia benissimo in treno in Cina, ci sono dei vagoni letto meravigliosi. Come stranieri si viene trattati molto bene. E sono uscito dalla stazione e stavo cercando l'albergo dove mettere giù le mie valigie, e c'era questa grandissima piazza dove sapevo che di fronte all'uscita dalla stazione ci doveva per forza essere un albergo, ma tutte le scritte non corrispondevano. Allora ho attraversato la piazza e ho cominciato ad entrare in tutti questi palazzi. Allora, la prima era stazione di polizia. Ho chiesto in inglese hotel, ma non sapevo il significato della parola hotel. Sono uscito ed era una biglietteria di una stazione dei bus. Poi sono entrato in un altro palazzo, non so cosa fosse, probabilmente era qualcosa, c'era una portineria, ma anche lì la parola hotel non... vedevo che gli occhi non si accendevano. Cercavano con grandi sorrisi di farmi capire che loro non capivano l'inglese. Io ripetevo semplicemente hotel, ma questa parola per loro era veramente stranissima. L'abbiamo già visto come la comunicazione tra la gente fuori dalle grandi città sia un vero problema per chi va in Cina senza conoscere il cinese. Ma come è messa la comunicazione tra i luoghi? E qui è stato bello perché i cinesi hanno un'idea dei trasporti che finché gli autobus non sono strapieni, come sovraccarichi e dire poco, perché il problema è che l'autobus arriva già stracarico e tu devi salire in questo autobus che è già stracarico. Allora il primo l'ho perso perché non capivo che bisognava entrare con grandi spinte. Il secondo l'ho perso perché non sono riuscito a spingere abbastanza per riuscire, quando ho visto l'autobus che arrivava, per mettermi in prima fila. Il terzo ce l'ho fatta finalmente a salire. E mi sono ricordato dei miei primi viaggi in Cina, perché il mio primo viaggio in Cina risale all'86, quando la Cina era ben diversa da allora. E mi ricordo che negli aeroporti non c'era nessunissima scritta nei nostri caratteri latini, e c'erano solo esclusivamente ideogrammi anche all'aeroporto. Quindi per forza bisognava usare una guida che ti accompagnasse fino al gate, ovviamente. E mi ricordo una cosa che mi aveva allora già fatto morire dal ridere, che appena l'aereo toccava il suolo, senza aspettare che si fermasse, tutti si alzavano di corsa e si precipitavano all'uscita con le loro valigie. E questa cosa qua ritorna spesso in Cina quando si fanno le code, la gente si precipita. E mi ricordo che una volta, proprio in uno di questi viaggi, mentre stavo andando su dall'isola di Hainan, che è una piccola isola vicino al Vietnam, e che allora stava facendo i primi passi verso il turismo e che adesso è diventata una meta molto interessante anche per il turismo internazionale, mi ricordo che avevo le mie borse, essendo fotografo, le mie borse con le macchine fotografiche, tutte le cose, e nella corsa di riuscire a uscire mi è caduta una borsa sulla testa di un cinese che era seduto sotto, il quale, colpito così in maniera veramente dura e pesante, non ha battuto ciglio come nel loro stile, perché quello che è importante nel comportamento cinese è quello di non reagire a ciò che crea emozione nel bene e nel male. Lui mi ha guardato, che se fossi stato io sicuramente sarei morto da quel colpo tremendo sulla testa. Quante immagini riesce a evocare il mio compagno di viaggio di oggi, Aldo Pavan? Forse il fatto che oltre ad essere un giornalista sia anche un fotografo e un videomaker lo avvantaggia nel descrivere la realtà in maniera così vivida. Ci siamo visti spingere per entrare a forza su un autobus stracarico di gente. Ci siamo osservati mentre alla stazione di polizia chiedevamo informazioni sull'hotel. Abbiamo assistito a una scena assurda appena atterrati all'aeroporto, quando Aldo, nella fuga di scendere dall'aereo, ha dato una botta in testa con la pesantissima borsa della sua macchina fotografica a uno dei passeggeri. Una botta che avrebbe fatto arrabbiare chiunque, ma che in questo caso non ha dato vita ad alcuna imprecazione. E adesso continuiamo la nostra visita lungo le rive del fiume Giallo. Abbiamo da Xi'an, abbiamo preso una macchina e abbiamo cominciato a seguire il corso del fiume entrando nella regione del Henan prima e poi dello Shandong. E devo dire che quando ci si inoltra nella pianura, dove la concentrazione della popolazione aumenta moltissimo, e il paesaggio è tutt'altro che bello. Si trasforma e diventa una pianura insulsa, con insediamenti diffusi, piccole capannoni industriali. Poi questa zona, dicevo, è anche una zona di miniere, quindi Da qui arriva il carbone che fa funzionare gran parte della Cina, quindi camion stracarichi e strade pessime. I trasporti non sono il loro forte, mi sembra di capire. Un po' come per gli indiani, continua Aldo. Per i cinesi avere un'automobile adesso è una cosa molto importante, è uno status symbol molto importante. Ma un po' come succede anche in India, dove lì si sorpassa senza guardare in faccia a nessuno e c'è la sfida che rientra per primo quando ci sono i sorpassi. Anche i cinesi usano più o meno lo stesso sistema. La logica è questa: correre in centro della strada. Più volte ha detto il mio autista: ma perché corri in centro? La strada è a quattro corsie, perché corri in centro della strada? Stai sulla destra? No, perché lì ci sono le piccole macchine, i motorini e le biciclette. Ho detto: sì, ma se la strada è vuota corri a destra così gli altri ti possono superare. No, noi abbiamo una macchina grossa, corriamo in mezzo, va bene. Allora cosa succede? Succede che se malauguratamente c'è un intoppo sulla strada, i cinesi, un po' come fanno anche gli indiani, non si fermano in fila ad aspettare, sorpassano nella corsia di sinistra. E questo può essere che magari ci sia un piccolo incidente o semplicemente un camion che si ferma a scaricare del materiale. Sono strade molto trafficate, strette. Allora tutti sorpassano e dall'altra parte succede la stessa cosa, che tutti sorpassano anche dall'altra parte. Si creano degli ingorghi mostruosi che possono durare anche delle ore. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Sul fiume giallo con Aldo Papan. When I walk beside her, I am a better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Ci siamo lasciati sulle strade della Cina con Aldo Pavan in mezzo a un traffico assurdo, dove macchine, camion, motorini, biciclette viaggiano in maniera assolutamente anarchica, formando spesso ingorghi di ore per una sciocchezza. A questo si aggiunga il carattere dei cinesi, come quella volta che Aldo mi ha raccontato è dovuto intervenire da buon occidentale per sbloccare una situazione, quando di ritorno da un'escursione in auto, stanchissimo e avendo in mente solo di tornare in albergo, si ritrova davanti a un incidente. Insomma, si toccano. E come succede con molto spesso, i due autisti non scendono dalla macchina. Perché di chi è la colpa, di chi non è, i due autisti si guardano, nessuno scende dalla macchina, immediatamente dietro comincia a crearsi la coda e tutti sorpassano. Allora io ho visto la malparata e dopo qui non arriveremo mai più in albergo. Allora sono sceso di corsa dalla macchina e ho aperto le porte dei due autisti, li ho fatti scendere e gli ho fatto sì che si parlassero tra di loro. Ovviamente io non parlavo, e loro erano stupidissimi perché loro dovevano assolutamente tenere la flemma. Dovevano stare calmi seduti in auto e un occidentale che va lì gli rompe completamente tutti i loro schemi mentali. Allora gli ho detto: ma guardate, dietro c'è la coda, gli facevo un segno. Spostate le macchine, tutto a gesti ovviamente, alzando un po' la voce. Loro, per il loro galateo, alzare la voce è un segno di grande maleducazione. Soprattutto in questi paesi che rispettano quelli che sono un po' i dettami tradizionali, questi costumi molto, molto confuciani che vengono tramandati di padre in figlio. E poi alla fine sono riuscito pian pianino, dopo che sono usciti dalla macchina, si sono parlati, si sono detti qualche parola, sono riuscito finalmente a far spostare le macchine e siamo arrivati in albergo un'ora decente. Del resto anche Pavan ha seguito Confucio in un certo senso, o almeno una delle sue massime: in qualsiasi direzione vai, vacci con tutto il cuore. Solo che il cuore di un italiano in certe circostanze ha un orientamento diverso da quello del cinese. Ed eccoci diretti verso una nuova meta, seguendo sempre il fiume giallo, una meta illuminata da cinematografiche lanterne rosse. Allora, questo il fiume giallo entra in questa regione piatta, ma facciamo c'è una piccola deviazione molto interessante che si può fare fino a Pingyao, che è una cittadina, una delle pochissime cittadine che sono rimaste intatte, che è una cittadina Ming, cinta da mura, con le case tradizionali cinesi, che sembra uscita veramente da un film d'altri tempi. È protetta dall'UNESCO, è una delle poche città in tutta la Cina che si sono conservate miracolosamente intatte. E vicino alla cittadina di Pingyao, che invito tutti ad andare a visitare, c'è una serie di palazzi, alcuni molto belli, alcuni meno, che furono dei mandarini. E in uno di questi palazzi venne girato il film Lanterne Rosse. E sono stati tenuti gli arredi originali del film. Quindi è molto curioso perché sembra veramente di entrare in quella che è la scena che si stava girando. E questo sito, in qualche maniera, è frequentatissimo dai turisti cinesi, ci sono milioni di visitatori ogni anno. 瑶西达西在城阙西，一日不见如三月兮。瑶西达西在城阙西，一日不见如三月兮。 Una nuova classe dirigente cinese che sta riscoprendo il turismo nazionale sembra una bella cosa. Certo che basta una piccola percentuale della popolazione che si muove e subito si contano milioni di visitatori. Con lo stesso spirito di riscoperta di quella che è la tradizione culturale cinese, è rinato anche la città di Khufu. La città di Khufu, che non è lontana dal fiume Giallo, è la patria di Confucio. E Confucio era un importantissimo nobile della dinastia cinese, che come sappiamo è stato il fondatore di questa che più che una religione è, possiamo dire, una dottrina che segnala tutta una serie di regole che è bene seguire. E quindi anche qui a Khufu si sta riscoprendo il culto di Confucio. C'è un bosco sacro dove migliaia e migliaia di cinesi vanno in pellegrinaggio, usiamo questa parola, ma è un pellegrinaggio decisamente poco con scarsa impronta religiosa. I pellegrinaggi, anche se di scarsa impronta religiosa, come li definisce Aldo, sembrano andare per la maggiore arrivati a questo punto del fiume. Ormai quasi stanco, il fiume si avvicina alla foce ed è qui che si può fare un altro piccolo pellegrinaggio andando a visitare un sito molto importante dove si ritiene sia nata la religione del taoismo. Quindi abbiamo completato tutte le religioni seguendo il fiume Giallo. Abbiamo parlato del buddismo, abbiamo parlato del confucianesimo. E possiamo vedere dove sono state scritte alcune importanti testi del taoismo. C'è una montagna sacra dove i monaci, con la loro lunga coda nera, passeggiano all'interno dei templi, di cui i pavimenti sono segnati da grandi simboli di Yin e Yang che si incrociano tra di loro. E quindi, in qualche maniera, seguendo il corso del fiume, si incontrano tutte le grandi religioni. Come ultima sorpresa abbiamo la possibilità di vedere il monastero di Shaolin, che è il monastero che ha dato vita alla pratica del Kung Fu. Come potevamo perderci i monaci nelle loro esibizioni mentre fendono l'aria elegantemente con braccia e gambe? E anche qui visitare questo posto è come andare a visitare un Luna Park, perché sono migliaia di pullman che vengono da tutta la Cina, e i monaci si esibiscono a orari fissi a pagamento nelle loro peripezie. E non solo, il monastero è aperto ai corsi per i giovani ragazzi, i quali pagano delle rette altissime per riuscire a entrare a far parte di questi corsi, ed è bello dormire lì perché la mattina presto, non nel monastero non si può più dormire, ma nei nuovi alberghi che sono stati costruiti a 5 stelle con dei prezzi assolutamente fuori misura rispetto a quella che è la campagna cinese, e sentire che all'alba, sentire già i giovani che cominciano a praticare il Kung Fu di prima mattina. Certo che, raccontato come ce lo racconta Aldo Pavan, sembra perdere un po' di fascino la pratica di questa antichissima arte marziale. Così come perde di fascino alla fine del suo corso il fiume giallo. Nelle parole di Aldo, infatti, c'è un po' di delusione per come le acque si mettono affaticate e inquinate nel mare. Ma del resto, dopo averci regalato tante bellezze e suggestioni lungo i suoi quasi 5.000 chilometri di percorso, anche il fiume giallo ha tutto il diritto di essere stanco. Ora Aldo Pavane in libreria con La via dell'incenso, De Agostini Editore. 牵住你的手，像别在黄河楼，波涛万里长江水，送你下扬州。真情伴你走，春色为你留。二十四桥明月夜，牵挂在扬州。